Essere e avere di Maria Luisa Pezzali. Ben ritrovati da Maria Luisa Pezzali, nuovo appuntamento con la rassegna estiva di Essere e Avere. Abbiamo selezionato una sorta di antologia dei temi e dei contributi dei mesi scorsi per tornare a riflettere su consumi e nuove tendenze. Sono le tracce del cambiamento all'insegna di nuovi stili di vita e di consumo. Iniziamo questa puntata con la storia di Change.org, la piattaforma di mobilitazione e partecipazione sociale che ben rappresenta quanto contino ormai le dinamiche di collaborazione e condivisione attraverso la rete, dinamiche che cambiano abitudini e regole di cittadini, istituzioni, consumatori e aziende. La rete aiuta anche l'arte, come racconta una startup tutta italiana che mette in contatto artisti e spazi espositivi unconventional, per così dire. Scopriremo quali tra poco. E poi sapete, ricordate che cos'è la staffocation? Indica il sovraffollamento di oggetti nelle nostre vite. Lo spunto per il focus sui trend che vi vogliamo riproporre, così come una nuova tappa del nostro cammino alla ricerca dell'Italia. Italian Factor. La borsa della spesa. Ci sono momenti importanti nella storia di ognuno di noi, momenti che non potrai dimenticare, come quella volta che un amico ti ha dato una mano e grazie al suo aiuto insieme avete cambiato le cose. A volte gli amici non hanno un volto, ma solo un nome, una firma che ha fatto la differenza. Lo trovate sulla nostra pagina Facebook, è il video con cui Change.org, la piattaforma aperta che permette a chiunque di lanciare e promuovere una petizione, festeggia i 2 milioni di utenti in Italia. Con oltre 57 milioni di attivisti in tutto il mondo, Change.org è la piattaforma di partecipazione e mobilitazione sociale numero uno al mondo. Le sue petizioni sono arrivate e arrivano sul tavolo di chi decide, da Barack Obama in giù. 15.000 le petizioni lanciate in questo primo anno e mezzo in Italia, 9 milioni le firme raccolte, attivismo online che diventa partecipazione dal basso, una nuova forma di democrazia liquida, interattiva. Salvatore Barbera è il direttore delle campagne di Change.org. Già 2 milioni di persone che si attivano frequentemente su Change.org, perché sono persone che ricevono un'email ogni settimana con campagne diverse che poi, quando credono opportuno, si attivano. Tra queste alcune campagne molto importanti, la vittoria di Buzzanti, che era stato denunciato dall'Associazione Telespettatori Cattolici per il suo personaggio di Don Pizarro, o la campagna di Stefano Corradino, che è riuscito a far espellere dal suo gruppo europarlamentare Borghezio per le dichiarazioni razziste nei confronti della ministra Cécile Kyenge. Tantissime vittorie, tantissime persone che partecipano, e forse insomma un fenomeno nuovo che in futuro potrà veramente permettere a chiunque di portare la propria causa, la propria richiesta all'attenzione dei decisori e anche dell'opinione pubblica, e vincere tante campagne. Sul web le persone vogliono sentire le storie di altre persone, essere ispirate da queste storie e da queste arrivare anche a dei cambiamenti significativi, non solo per la singola persona, ma per tutta la società. C'è un profilo tipo dell'attivista di Change.org in Italia? So che nel mondo la percentuale maggiore è femminile, così? Sì, in Italia è ancora più accentuata questa differenza. Circa il 67% dei nostri utenti, delle persone che si attivano, sono donne. Una cosa forse che è più inaspettata è l'età media, che in realtà è abbastanza alta. Gruppo sopra i 35 e fino ai 54 è il gruppo demografico più attivo su Change.org. Vorrei aprire una piccola parentesi: spesso si dice insomma che le petizioni online non servono a nulla o che non basta mettere un like su Facebook per cambiare le cose, e sono d'accordissimo anch'io, però è una questione di strumenti, cioè la cosa principale sono le idee, le proposte, le persone che ci stanno dietro, però ci sono degli strumenti nuovi e ovviamente ormai la società si sta muovendo in una direzione, il digitale e le informazioni attraverso il web sta diventando il canale preferenziale, quindi anche chi si occupa di cambiamento sociale e di politica non può esimersi da utilizzare questo tipo di strumenti. Ecco, questi strumenti di democrazia liquida, wikicrazia, insomma, sono tante le definizioni per questi processi partecipativi online di mobilitazione sociale. Come dire, è matura anche in Italia il contesto? Credo che 2 milioni di persone che in un anno e mezzo si stanno attivando è sicuramente un segno della maturità degli strumenti a disposizione. Io non ho la pretesa di sapere come si evolverà e dove andremo, ma credo che sarà sempre più importante e più rilevante l'uso di strumenti collegati al web nella democratizzazione, nella discussione civile intorno a temi politici, sociali e economici. Si dice slacktivism, no? Il fatto di limitarsi alla partecipazione con un click. Esiste anche un rischio in tutto ciò? Allora, intanto sullo slacktivism sicuramente è una cosa che ci preoccupa a noi prima di tutti, e credo che assolutamente sì, non basta firmare una petizione e non basta mettere un like su Facebook per cambiare le cose. Infatti molte delle campagne che partono da change.org poi diventano delle mobilitazioni offline, delle consegne firme. Quello è un punto di partenza importante perché permette di aggregare un numero di persone molto ampio in un tempo molto breve, una cosa che prima, se pensiamo alle petizioni classiche con il tavolino e la raccolta firme per strada, ovviamente aveva dei tempi e anche dei costi più elevati, solo chi aveva una struttura sul territorio poteva farlo, adesso veramente chiunque può farlo. Aggregare queste persone per poi portare avanti una campagna strutturata, complessa, è il secondo obiettivo, è l'obiettivo vero di una campagna online. Come si sostiene change.org? Qual è il modello? Allora, noi abbiamo in tutto il mondo decine di organizzazioni che sostengono change.org, fra queste le più grandi organizzazioni, UNICEF, Greenpeace, Medici Senza Frontiere, Amnesty International, sono clienti di change.org. Perché finanziano change.org? Perché lanciando le petizioni e mettendosi in contatto con quelle persone che possono essere interessati ai loro temi, hanno la possibilità di avere un canale diverso per comunicare direttamente con queste persone. Quindi si crea un sistema attraverso il quale le informazioni non passano solo attraverso i media tradizionali e il filtro di un giornalista, ma si può creare un rapporto diretto tra un'organizzazione e i suoi eventuali sostenitori. Insieme a te, Amir, ha ascoltato nel discorso di fine anno il presidente Napolitano parlare dei ragazzi nati in Italia da genitori stranieri. Grazie. Insieme a te gli apicoltori hanno salvato le api da 3 pesticidi letali messi al bando dalla Commissione Europea. Grazie. 170 le campagne che hanno raggiunto l'obiettivo, tra queste l'acquisizione dell'isola di Budelli come bene comune, la candidatura di Malala al premio Nobel per la pace, il ritiro di una pubblicità che ironizzava sul femminicidio o ancora l'oscuramento di un sito austriaco che offendeva la memoria di Falcone e impastato, e la concessione della cittadinanza italiana a Christian. Nato in Italia da mamma colombiana, affetto da sindrome di Down, per la legge italiana Christian non poteva prestare giuramento perché ritenuto non in grado di manifestare autonomamente la propria volontà. La mamma Gloria Ramos. Christian ha fatto il giuramento, è cittadino italiano a tutti gli effetti, grazie al sostegno del Change.org e alla grande intervenzione del deputato Calizza Ucchi. Che cosa ha significato questa cosa per Christian? Beh, ha significato un senso di appartenenza, una identità. Non possiamo mantenere per 30 anni, per 50 anni questo buio che c'è nella legislatura italiana per i ragazzi nati in Italia. 30.000 persone che hanno supportato la vostra petizione, per lei questo invece che cosa ha significato? Tanto, signorina, tantissimissimo. Guarda, vale a dire che c'è moltissima gente che ha una speranza di che questo buio prima o poi diventi una luce per tutti quelli che come mio figlio si trovavano in questa situazione, si trovano tuttora in questa speranza di che veramente cambi la legge per il diritto di cittadinanza. Il web come acceleratore dunque dei processi di democratizzazione in molti settori, anche nell'arte. piazzadellearti.it è una piattaforma che mette in contatto artisti e mecenati, un progetto che rompe gli schemi e porta l'arte in posti nuovi, negozi, ristoranti, alberghi, ma anche uffici, supermercati, fabbriche e ospedali, come spiega Riccardo Usuelli al microfono di Adriana Fracchia. Piazza delle Arti è un luogo virtuale che poi piano piano si trasforma in un luogo fisico, mette in contatto gli artisti e i mecenati per farli incontrare e appunto mettere a disposizione dei luoghi che da virtuali sul sito, appunto con l'esposizione delle opere che c'è sul profilo di ogni artista che le ha caricate, si trasformano in esposizioni fisiche proprio perché i mecenati possono essere dei negozi, possono essere dei luoghi pubblici, possono essere delle persone che mettono a disposizione anche la loro immagine se sono minimamente noti. Chi ci guadagna? L'artista si fa conoscere, il mecenate appunto ha un nuovo cono di luce grazie a questa nuova attività. In futuro, tra qualche mese, noi daremo la possibilità di vendere anche le opere attraverso il sito, quindi comunque di aggiungere anche quello che poi è anche un po' il fine ultimo di un artista, oltre che di diffondere e divulgare la propria arte, ma anche di trasformarla chiaramente in una professione che renda comunque un ricavo. Come pensi che lo accoglierà o ha già accolto, insomma, il mercato dell'arte questo nuovo modo di proporsi da parte degli artisti? Io penso che siano due mondi che possano viaggiare tranquillamente in modo parallelo, nel senso che noi non andiamo minimamente a pensare di sostituirci a quello che è il mercato dell'arte, diciamo con la super maiuscola, che continuerà a esserci e continuerà a vivere comunque di quotazioni, di un iter comunque di esposizione degli artisti che è in uso da tempo. Noi vogliamo soltanto aprire un pochino di più il mercato, democratizzarlo e dare la possibilità a quelli che non potrebbero mai accedere comunque a determinati nomi e in determinati spazi di farsi conoscere, magari un giorno di, speriamo, arrivare anche in quel mercato di quotazione che oggi sembra così lontano. Speriamo che questa iniziativa possa aggiungere bellezza a delle attività commerciali che magari fino adesso non ci hanno mai pensato e appunto grazie a questo di poter far conoscere qualche artista che esce alla scoperta e fa vedere che cosa sa fare. Essere e avere. Alcune malattie sono invisibili, altre invece a dir poco ingombranti. Quando possiede qualcosa non riesce a buttarla via. Anche se davanti agli occhi di tutti è difficile ammettere il problema. Io colleziono cose. E salvare il rapporto con le persone che più si amano. Le storie di chi non riesce a rinunciare a nulla e rischia di perdere le cose più importanti. Siamo in trappola. Focus sui trend. Partiamo da qui, da Sepolti in Casa, il programma su Real Time che racconta le storie dei cosiddetti hoarders, persone afflitte dall'ossessione per l'accumulo. Partiamo da qui per parlare di Staffocation e della tendenza che rappresenta il suo antidoto, la Light Solidity. Nel libro omonimo l'inglese James Wallman definisce la Staffocation, da staff, cose, e suffocation, soffocamento, come una delle emergenze dei nostri tempi, un tema che ha molto a che fare con le istanze più avanzate nel mondo dei consumi, dalla sobrietà alla sostenibilità, alla ricerca di un mondo migliore, più leggero, più etico e più felice in pratica. Ne parliamo come sempre con i ricercatori di Future Concept Lab, Lucia Cromesca, ben ritrovata. Buongiorno. Innanzitutto, Lucia, la nostra ispirazione, partiamo da Staffocation, questo libro di cui si parla molto. Sì, è un libro veramente originale, ha introdotto un nuovo termine. Tra l'altro il giornale The Sunday Times alcuni mesi fa ha detto che la Staffocation è la buzzword dell'anno 2013. Comunque James Wallman fa parlare con il suo libro perché dice che noi siamo praticamente soffocati dalle cose che possediamo. Evidentemente possedere troppi oggetti prodotti non ci fa sentire più sereni. Il paradosso è che il consumatore ha bisogno dei rimedi e gli oggetti alcune volte davvero diventano l'antidoto a questa sofferenza degli oggetti. La suffocation è il motivo per cui le persone oggi sono più propense di alleggerire la loro vita, almeno in casa e nell'uso degli oggetti quotidiani, però con oggetti quotidiani che hanno le qualità leggere. Ecco perché parliamo di light solidity, cioè una tendenza che ci dice che non bisogna rinunciare alle cose, ma cercare la sostanza, un alto tasso di innovazione e ovviamente la sostenibilità latente agli oggetti. Ecco, i consumatori non diventeranno minimalisti o neopauperisti da un giorno all'altro, ma punteranno sempre di più su oggetti che regalano leggerezza psicologica e estetica. Ecco, quindi il design ha intercettato questa tendenza, solidità e leggerezza insieme. Come coniugarle? In quali oggetti si traduce? Facciamo qualche esempio. Certo, certo. I progettisti lavorano verso questa direzione e disegnano progetti, prodotti con delle qualità durature, i processi sono diventati più trasparenti e soprattutto cercano di costruire esperienze attraverso alcuni oggetti. Il primo esempio è un tavolo che si chiama Kleiner gleich 5, che significa minore uguale a 5 kg. La foto di questo ragazzo magrolino che solleva con una mano un tavolo che è così leggero da pesare meno di 5 kg ha fatto il giro del mondo. Ecco, Ruben Beckers, con una ricerca molto robusta, ha creato questo tavolo leggerissimo creando una rete di striscioline in legno di pioppo, creando una struttura davvero rigida che però è apparentemente molto sottile, oltre ad essere effettivamente molto leggera. Ecco, questa leggerezza anche psicologica e estetica la vediamo nel lavoro di Drawing Furniture Series di Jeanil Park. Anche lì la progettista ha pensato che può trasformare i suoi disegni tratteggio a matita, semplicissimi, dalle due dimensioni in tre dimensioni. E che cosa ha fatto? Ha fatto una serie di prodotti, degli oggetti per la casa, tavolini, lampade, sedie, mettendo insieme tante vergelle in acciaio elettrosaldate. Lei ha lavorato tantissimo sulla tecnica di saldatura per far risultare il prodotto finale molto resistente e stabile. Però il risultato è semplicissimo, sembra davvero un sketch, un disegno quasi surreale. Ecco, la poetica del quotidiano, la sobrietà, vediamo anche però la concretezza e la sostanza nella tecnica di progettare. Un altro esempio interessantissimo da Luca Nicchietto, che conosciamo molto bene, il suo stile anche e la sua capacità di interpretare le tendenze in atto, è il progetto Suca Baruca. È un set di caffè con una caffettiera, filtro e alcune tazze. È molto bello perché lui reintroduce questa ritualità di bersi un caffè fatto bene, però è bevuto in queste bellissime tazze in ceramica, lavorate a mano, con un motivo lineare inciso a mano, una esecuzione veramente raffinata e ispirata dal bianco di Martin Margiela e anche i pastelli delle architetture giapponesi. La caffettiera ci ricorda la Carmencita, no? Il famoso personaggio di Armando Testa. Ecco, anche lì la leggerezza che ci fa sorridere attraverso un progetto però molto concreto e anche molto interessante da vedere, cioè lanciato da una galleria di arte canadese. È in qualche modo un concetto di sostenibilità più avanzato, c'è in questo anche una dimensione psicologica legata a questo alleggerimento del quotidiano? Sì, no, non c'è dubbio che non rinunciare alle cose, ma allo stesso momento cercare la sostenibilità più avanzata e ricercare e anche sperimentare con l'uso dei materiali e delle risorse è una priorità. Perché? Perché ci fa sentire più sereni. I progettisti ci permettono di fare delle scelte più etiche e perché sicuramente noi possiamo percepire questa leggerezza solida. Ci sono tanti progetti che arrivano da tutto il mondo che lavorano nella sostenibilità, però mai banale, design essenziale e soprattutto oggetti che sono armoniosi e solidi. Italian Factor. Siamo al nostro manifesto a puntate alla ricerca dell'Italian Factor, l'acceleratore del Made in Italy, firma Francesco Morace, che ci ha raggiunto in studio come sempre. Buon pomeriggio Francesco. Buon pomeriggio a tutti voi. Nuova puntata, nuovo fattore potenziale. Quale è quello di oggi? Quello di oggi è molto caldo, è la convivialità ed è molto importante perché arriva dalla nostra straordinaria e naturale capacità di essere conviviali e di entrare in relazione con gli altri sui territori ma anche nelle aziende. Quindi è un elemento che spesso non viene considerato tra le armi del management o del marketing e che invece oggi è al centro di una nuova opportunità. Anzi, spesso viene vissuto come elemento di disturbo della produttività, dell'efficienza, della catena produttiva proprio. Assolutamente. L'elemento della convivialità sta riemergendo come alternativa a un'idea spersonalizzante, no? Di una professionalità che non deve prevedere relazioni personali troppo profonde. Il modello italiano, il modello direi mediterraneo, è molto diverso e oggi si sta invece comprendendo quanto sia importante anche in termini di motivazione nel lavoro il rapporto direi solidale con i tuoi colleghi e anche la capacità empatica di discutere, magari di prendere le decisioni alla macchinetta del caffè e non nelle grandi riunioni. Quindi questo, Francesco, è un fattore che può entrare nei protocolli aziendali? Noi pensiamo proprio che il protocollo della convivialità, con caratteristiche che vanno naturalmente discusse e che evitano la perdita di tempo, ma non c'è dubbio che la sintonia tra i collaboratori e quindi un lavorare anche in squadra abbia forme di convivialità che vanno oggi anche rese al centro, rese un punto di forza del nostro modo di lavorare. Welfare aziendale dunque, ma anche una visione sociale, quasi civica dell'impresa, soprattutto in relazione al territorio. Del resto questa è stata la visione delle piccole e medie industrie nel nostro paese. Assolutamente, capire che esiste un capitale sociale che oggi acquisisce un'importanza molto maggiore, qui basta fare un nome, Adriano Olivetti. Adriano Olivetti ha inventato l'azienda che è parte del territorio e devo dire che tanti altri imprenditori ancora oggi, dalla famiglia Zegna alla famiglia Illi allo stesso Della Valle, hanno capito quanto sia importante investire sui loro territori per rendere poi più performativa la propria azienda. E questo è un tratto tipicamente italiano. Grazie in regia a Roberto Scaltritti. A sabato prossimo con il meglio della stagione di Essere e Avere. Non mancate, un saluto da Maria Luisa Pezzali.